Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in cui, come sempre, visto che venerdì, avremo anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia. Per quello che riguarda i mercati, segnalo che sono tutti abbastanza allineati oggi, mezzo punto percentuale di rialzo sia a Milano che a Parigi, 0,80 a Francoforte, 0,20 a Londra, meno 0,11 in America col Dow Jones, euro un po' in indebolimento a 1,1287, e tra i titoli spiccano in questo caso, e anche qui parliamo sempre, sono settimane, giornate di trimestrali, spiccano, dicevo, Ferragamo dopo i dati, l'utile netto a 30, in realtà il trimestre, 34 milioni di euro in crescita del 6%, e Poletto sarà il nuovo responsabile della società. Conti buoni anche per Uxnet Apotheke, che infatti guadagna l'8% in borsa, rinnovata anche la partnership con Armani. Poi UbiBanca guadagna in questo momento il 5,60, Anima Holding il 4,20, Azimut il 2,70, Ferrari 2,5, Fiat Chrysler più 1,80 come Snam e Fineco Bank. Fronte opposto 3% di rialzo Unipol, fronte opposto 3% di calo Unipol, il 2,90 lo perde Unipol Sai, Saipem meno 2,70, Generali meno 0,90, Mediolanum meno 0,80%. Ma al di là della classifica e della borsa, di cosa ci occuperemo oggi? Beh, da un lato è arrivata la riforma della legge di stabilità, arrivano la nuova legge di bilancio, infatti è stato depositato alla Camera un disegno di legge parlamentare a prima firma del Presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio, Francesco Boccia. Tra le novità arriva anche lo stop alle clausole di salvaguardia. In caso di sforamento interviene il Tesoro, che può procedere alla sospensione per l'esercizio in corso delle norme o a tagli al budget del Ministero coinvolto. E poi nel documento economico-finanziario sarà allegato anche l'indice, una relazione con l'andamento dell'ultimo triennio degli indicatori di benessere, cioè il cosiddetto indice di benessere, non solo il PIL. Quindi il nuovo indicatore seguirà gli standard internazionali e dovrà appunto guardare come si sta muovendo negli ultimi tre anni questo indice, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica. Questo per integrare l'indicatore fino adesso più usato e che continuerà ad essere usato, che è il PIL. A proposito di PIL, ne parleremo nella seconda ora. Oggi l'Istat ha diffuso un PIL per il primo trimestre italiano leggermente migliore delle attese, più 0,3%, corretto appunto per gli effetti di calendario e la destagionalizzazione, e aumenta dell'1,03% rispetto all'ultimo trimestre del 2015, più 1% rispetto al primo trimestre del 2015. È una lieve accelerazione anche rispetto all'ultimo trimestre, che fece un più 0,2%, è comunque in linea con le attese degli analisti. Devo dire che a livello europeo c'è stato comunque un PIL in accelerazione nel primo trimestre, la UE a 28 più 0,5%. Nello specifico, i paesi che più hanno accelerato sono Slovacchia più 1,7, Cipro più 0,9, Spagna, Lituania più 0,8, Germania più 0,7, e poi c'è Austria più 0,6, Francia più 0,5, Italia più 0,3. Perché leggo questa classifica? Perché è comunque meglio delle attese, ma si capisce che noi siamo nella parte bassa quanto a crescita economica, che comunque c'è, ma nella parte bassa. E ancora, poi abbiamo Lettonia invece in recessione, meno 0,1, Portogallo basso più 0,1 e la Grecia ancora in recessione, meno 0,4%. Così come invece per quello che riguarda l'Italia, l'Istat ha rivisto i dati sulla deflazione ed è più accentuata del previsto, al mese di aprile meno 0,5% l'andamento dei prezzi al consumo. Questa è deflazione vera e propria, non possiamo più parlare di prezzi fermi ma di prezzi in calo, e quindi l'indice nazionale dei prezzi al consumo diminuisce anche su base mensile. Certo che poi l'Istat specifica che è principalmente da attribuirsi al calo dei prezzi dei prodotti petroliferi e del trasporto, però anche i prezzi del carrello della spesa, quelli dei beni più consumati, alimentari e beni per la casa, segna un meno 0,2% rispetto all'anno prima. E di questo parleremo, ripeto, nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, le altre notizie in breve. Oggi nuove dichiarazioni del segretario al tesoro americano, il ministro dell'economia americano Jack Lew, il quale ha detto un alleggerimento del debito della Grecia è un fattore molto importante nelle trattative in corso. La Casa Bianca spinge perché si alleggerisca un po' la pressione sulla Grecia. E dall'altro, sulla Brexit, ha detto: guardate che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea avrebbe un effetto negativo sia sulla Gran Bretagna sia a livello di stabilità mondiale. Il Fondo Monetario Internazionale è intervenuto sempre sulla Brexit: con l'uscita della Gran Bretagna vi sarebbe un lungo periodo di incertezza. Il numero uno del Fondo Monetario, Christine Lagarde, è a Londra e ha detto: vi sarebbero conseguenze negative anche sulla crescita. E il Fondo Monetario fa notare che il clima di incertezza dovuto al referendum sull'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ha già creato un danno in Gran Bretagna. Sono calate del 40%, per esempio, le transazioni degli immobili commerciali, nel senso che in questo momento si cerca di capire se la Gran Bretagna resterà o no nell'Unione Europea prima di acquistare un immobile per fini commerciali, quindi per attività d'ufficio o quant'altro. Chiaro, come già ricordavamo due giorni fa, che tutte le volte che parla il Fondo Monetario, figuriamoci poi se parla Schäuble, a favore o meglio contro l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, c'è il rischio di scatenare l'orgoglio nazionale britannico e dire: noi non prendiamo diktat e indicazioni da nessuno. E infatti la parte anti-europea, che è indietro il referendum, parla di prepotenza da parte del Fondo Monetario Internazionale. E ha detto: il fondo è finanziato dall'Unione Europea e quindi è poco indipendente. Nel frattempo restiamo in Unione Europea, dove l'Unione Europea ha bloccato il tentativo dell'Austria di ottenere una sorta di permesso preventivo per introdurre controlli di frontiera al Brennero, in deroga a quanto previsto dal patto di Schengen. Tra l'altro oggi abbiamo anche il dato di Frontex: il numero degli arrivi di migranti in Italia ha superato lo scorso aprile per la prima volta dal giugno del 2015 quello degli arrivi in Grecia, nel senso che in Italia sono arrivati 8.370 arrivi contro i 2.700 in Grecia. Il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble invece oggi, in un'intervista alla Handelsblatt, ha detto che i trafficanti troveranno nuove rotte, noi dovremmo mostrare solidarietà all'Italia. È la seconda volta in una settimana che sono d'accordo con Schäuble, mi preoccupo. E poi ha aggiunto Schäuble: l'Austria dovrebbe sostenere l'Italia invece di stabilire al Brennero, una delle frontiere più intrise di significato emotivo d'Europa, nuovi controlli. Quindi è contrario anche ai nuovi controlli dell'Austria. Sulla Grecia Schäuble ha detto che è fiducioso di un accordo che si dovrebbe raggiungere entro due settimane se il giudizio della riforma è positivo, e si è detto però contrario al taglio del debito greco. E poi ha riconfermato che ci sono grossi rischi per i tassi bassi in Germania, ma non ho criticato la Banca Centrale Europea. Il PIL tedesco oggi, visto che i dati riguardano tutti i paesi dell'Unione Europea, ha fatto più 0,7% nei primi tre mesi del 2016. E sempre in Germania AEG Metall, che è, diciamo, la FIOM tedesca, la potentissima FIOM tedesca, per farci capire a tutti, ha raggiunto l'accordo sugli aumenti salariali del 2,8% da luglio e del 2% da aprile 2017, in più una tantum di 150 euro a lavoratore. Oh. Comunque, sui dati diffusi oggi dall'Istat, e quindi da un lato una leggera accelerazione del PIL nel primo trimestre, dall'altro una deflazione più alta di quanto non ci si attendesse, su questo, dicevo, si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il prodotto interno lordo del primo trimestre cresce dello 0,3%. Il dato è ufficiale e lo certifica l'Istat, che ha anche corretto in meglio la performance del PIL dell'ultimo trimestre 2015, alzandolo da più 0,1 a più 0,2%. È un dato ancora modesto, evidentemente, ma in sé una piccola novità positiva. Cresce infatti la componente della domanda interna, vale a dire la spinta ai consumi che arriva dall'interno, proprio mentre le esportazioni invece risultano cedenti. In definitiva, la crescita per il 2016 dovrebbe essere di almeno un punto percentuale, un po' meno per ora rispetto all'1,2% che il governo ha indicato nel DEF, il documento di economia e finanza. A rovinare questo quadro, però, c'è la deflazione che aumenta. L'Istat ha rivisto a meno 0,5% il dato di inflazione di aprile. È l'effetto del ribasso dei prezzi del petrolio e del conseguente calo dei costi dell'energia, ma anche l'inflazione legata ai prezzi dei beni del cosiddetto carrello della spesa segna comunque una diminuzione. Anche se la domanda interna dà qualche segnale di vivacità, il dato della deflazione dimostra che in termini profondi il consumatore italiano è ancora molto guardingo e non ha un particolare fiducia nel futuro. Il confronto con l'Europa poi è impietoso. La Germania conta un exploit nella crescita del PIL del primo trimestre con un più 0,7%, che è anche superiore alle attese, così come Francia e Spagna, che crescono a ritmi doppi rispetto all'Italia. Purtroppo questi dati non aiutano ancora a diradare la nebbia sulla crescita del nostro paese, che rimane incerta e molto diseguale tra regione e regione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, prima di arrivare alla poco invidiabile classifica di Focus Economia, che oggi, ahimè, dovrà toccare anche elementi più da 2 di novembre, tipo morti e obitori, ma parliamo anche di questo quando parliamo di inefficienza della pubblica amministrazione, di sprechi di soldi pubblici, però parliamo di una cosa un po' più leggera e anche positiva, libri. Oggi, a meglio, è in corso il Salone Internazionale del Libro di Torino, che sarà aperto fino al 16 maggio, in un mercato che dal 2011 al 2014 ha perso quasi l'11,5% del valore, passando il mercato dei libri, il mercato editoriale italiano, da 2 miliardi e 150 milioni a 1 miliardo e 900 milioni. Però segnali positivi sono arrivati nei primi 4 mesi del 2016 quanto a valore, anche se continuano a calare le copie vendute. Nei canali classici, quindi librerie e grande distribuzione organizzata, i libri di carta hanno registrato una crescita dello 0,1%, in area negativa invece gli ebook hanno fatto più 1,6%, area negativa per invece tutto il numero delle copie vendute, meno 3,4%, cioè 800.000 libri in meno. Questi dati dell'indagine Nielsen, diffusi appunto e presentati oggi al Salone del Libro di Torino per conto dell'Associazione Italiana Editori, l'AIE. Di questo ha parlato la nostra Alessandra Tedesco proprio con il presidente dell'AIE, e cercando di capire se sono i libri a costare di più e quindi questo giustificherebbe l'aumento del valore e il calo delle copie, oppure sono i lettori che comprano anche meno libri a prezzi anche più bassi. Dipende senz'altro magari da un prezzo in leggero aumento, e ricordo che però in Italia i libri costano meno che in qualsiasi altro paese d'Europa, e senz'altro da tipologie di acquisto che possono incidere evidentemente poi sulla componente coppie e sulla componente ricavo. Il tema soprattutto è che libri a prezzi bassi o a prezzi estremamente bassi hanno, come sempre stato dimostrato, avere una vita breve, cioè hanno un momento di crescita quando vengono lanciati, ma poi si esauriscono comunque. Tanto importante l'inversione di tendenza. Dal 2010, per la prima volta, il libro si è confrontato con la crisi economica. Il libro è sempre stato un prodotto aciclico, non aveva mai subito flessioni o crescite. Direi che per la prima volta gli editori sono trovati a confrontarsi con la crisi economica e quindi a dover cambiare velocemente, adeguarsi a logiche quindi di marketing un po' diverse e quindi anche far fronte a questa situazione con innovazione che non è solamente tecnologica ma anche proprio di linguaggio rivolto al mercato. Il segnale positivo, almeno a valore, l'abbiamo visto già verso la fine del 2015, c'è ottimismo appunto in questi primi mesi del 2016, parliamo ancora però insomma di percentuali abbastanza limitate. Lei è fiducioso sul fatto che si possano rafforzare queste percentuali positive? Si rafforzeranno con due condizioni: una, capacità di offerta degli editori, sia di buoni titoli, sia di best seller, sia di elevare la media di vendita dei titoli, da una parte. L'altra, la crescita economica dei consumi più che del paese, che è l'aspetto fondamentale. Se crescono i consumi come sembra, interni, che come sembra stia avvenendo, credo che ci sarà anche una crescita del nostro mercato. La classifica della settimana. Allora, partiamo bassi per arrivare alti, come sempre al quinto posto della nostra poco invidiabile classifica. In realtà dovrebbe essere un esempio virtuoso, perché non è vero che la pubblica amministrazione, diciamo, non conosca la parsimonia, come delle volte noi denunciamo, anzi tutti i venerdì denunciamo. Pensate un po', insomma, il Ministero degli Interni, guardate che è importante, domanda, secondo voi che cosa ci puoi fare con 150 euro in un'auto? No, forse cambi lo specchietto. Perché lo dico? Perché la divisione distrettuale antimafia di Bari, che insomma ha da lavorare, ne abbiamo letto anche recentemente sulle cronache, aveva chiesto, o meglio, la procura di Bari aveva chiesto per favore al Ministero degli Interni di porre rimedio, l'ha chiesto il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, la lettera l'ha inviata al Ministero della Giustizia, di porre rimedio alla situazione insostenibile del parco auto dell'antimafia a Bari, dell'IDA. Sono 4 auto dove i tagliandi non vengono fatti da almeno un decennio. Qualcuno dice che hanno difficoltà anche a fare il cambio dell'olio e ha chiesto per favore di intervenire subito, visto che ci sono 240 omicidi di mafia consumati, tentati e risolti, commessi a Foggia e provincia negli ultimi decenni anche nella zona limitrofa di Bari. Dice: attenzione, noi siamo stracarichi di lavoro, per favore inviateci delle risorse. Sapete quanto gli ha inviato Roma alla DDA, alla divisione distrettuale antimafia di Bari, per 4 auto, non sto scherzando, 150 euro in tutto. Cosa ci fai? Un adesivo ci apri, cosa fai con 150 euro? Vedi che siamo un paese molto bello risparmioso quando vogliamo, peccato che poi siamo anche lo stesso paese dove, e qui mi sposto leggermente più a sud, dove siamo in Sicilia, la regione Sicilia scopre, tra virgolette, di pagare la bellezza di 2.000 pensioni ad ex dipendenti che hanno tutti meno di 59 anni, di cui 800 hanno meno di 54 anni, ma complessivamente la regione Sicilia paga 16.000 pensioni con un assegno superiore all'ultima busta paga. Cioè, qui stiamo ragionando la Fornero, gli esodati, lo scivolo, la flessibilità in uscita, cosa fare con la reversibilità, eppure in Sicilia ci sono 16.000 ex dipendenti della regione che hanno un assegno di gran lunga superiore all'ultima busta paga. Perché? Pensate che la regione, rispetto ai contributi versati da chi è in servizio, mette a bilancio 4 volte in più, un valore 4 volte più alto per pagare queste pensioni. Allora, 2.000 ex dipendenti regionali che ricevono un assegno di quiescenza pur avendo meno di 59 anni, 800 hanno meno di 54 anni, 150 hanno meno di 49 anni, io vorrei sapere come si fa ad andare in pensione a meno di 49 anni, 50 hanno meno di 44 anni. Ma quando hanno iniziato a lavorare in regione questi? Scusatemi, non mi devo arrabbiare oggi. Comunque sono 16.248 pensioni. L'assegno medio non è basso, anzi direi che è altino, 36.000 euro. 36.000 euro di pensione all'anno, insomma, con quello che gira è alto. Come mai? Questa è la media, vuol dire che c'è chi ne becca sicuramente 70.000, chi ce ne beccherà 18.000. Perché? Perché il modo con cui la Regione Sicilia calcola la pensione dei suoi dipendenti è molto semplice: il 50% dell'ultimo stipendio più il 2,5% per ogni anno di servizio. Il risultato qual è? Che in media i pensionati ex dipendenti della regione ricevono il 105/115% dell'ultimo stipendio, anche quelli che hanno meno di 44 anni, anche quelli che hanno meno di 49 anni, anche quelli che hanno meno di 54 anni. È giusto, no? Bisogna dare le pensioni d'oro ai bei pensionati e 150 euro a quattro macchine della divisione di statuale antimafia di Bari. Voi direte: che c'entra? Beh, se risparmi da una parte, vabbè, ma andiamo avanti, andiamo al terzo posto. Anzi, andiamo al terzo posto, sì. E ci spostiamo ad Avellino. E qui però la storia è nota, tanto è un po' fotocopia. Se ne è accorta questa volta è stata la Guardia di Finanza. Il procuratore di Avellino, Rosario Cantema, ha parlato di saccheggio di denaro pubblico. E praticamente che cosa è successo? È sempre il solito meccanismo che l'azienda comunale del comune di Avellino, per la precisione si chiama Azienda Città Servizi, veniva usata come una specie di bancomat dai manager dell'azienda stessa. Nello specifico, Amedeo Gabrieli avrebbe usato la carta di credito aziendale per acquisti personali per le spese dell'amante, del cognato e della cognata. La cosa interessante da capire: il cognato e la cognata sono quelli dell'amante o quelli di sua moglie? No, perché sennò qui siamo di fronte a un caso di famiglia allargata, anche interessante. E tra i parenti figura anche la consigliera comunale Barbara Matetic, eletta in lista civica collegata al PD. Televisori, viaggi, multe, ristoranti, il conto sempre a carico dell'azienda comunale. Addirittura con la carta di credito è riuscito a pagare, dell'azienda ovvio, non la sua, è riuscito perfino a pagare l'assicurazione di un'auto di una parente del manager. Poi ha sponsorizzato senza motivo un torneo di calcetto in Emilia. Guarda che bello, tu sei ad Avellino e sponsorizzi un torneo di calcetto in Emilia. Poi il telepass usato per scopi privati, il manager che regala a una dipendente ritenuta dagli inquirenti la sua amante un televisore da 60 pollici, un'auto e una bicicletta elettrica che servivano per l'azienda. Sarebbe interessante capire in che ordine, perché è interessante se prima gli regala la bicicletta elettrica, poi il televisore, poi l'auto, c'è un investimento incrementale, direi, in economia. Altra cosa, se avesse regalato prima l'auto, poi il televisore, poi la bicicletta elettrica, vuol dire che il rapporto andava un po' forse a sfaldarsi. E poi vacanze gratis nel Salento, in Valtellina, sempre a carico delle casse della partecipata comunale. E quindi arresti domiciliari per l'amministratore delegato, appunto, Amedeo Gabrieli, accusato di peculato, corruzione e voto di scambio, perché c'è anche voto di scambio dietro. Poi 5 provvedimenti di divieto di dimora che hanno colpito Mauro Aquino, Giuseppe Freda, Maria Stingo, Sergio Galluccio e Vincenzo Marciano, rappresentanti di associazioni cooperative a cui sarebbero stati affidati lavori di manutenzione del verde e gestione dei parcheggi in città senza gara. Tra l'altro, la procura scrive, esistevano cooperative fittiziamente realizzate con il solo scopo di creare contenitori dove sistemare amici, amanti e parenti. Ah, va bellissima, è un nuovo diritto di famiglia, si parla tanto di unioni civili, ma qua siamo già oltre. E quest'ultime cooperative convenzionate, si legge nell'ordinanza della procura, in palese violazione di legge dalla società in house del comune, da diversi anni esercitavano la gestione dei parcheggi su tutto il territorio del comune di Avellino, con un enorme danno alle finanze municipali e l'amministrazione costretta ad approvare debiti fuori dal bilancio. E poi l'ombra del voto di scambio. C'è una cosa interessante, perché il questore di Avellino, che si chiama Maurizio Ficarra, dice: l'aspetto grave è che gli indagati pur avendo ricevuto l'avviso di garanzia da parte degli inquirenti, non hanno desistito dalle loro condotte, anzi nelle intercettazioni telefoniche gli indagati si mostrano sfrontati, capite? Questo è il massimo. Hanno la faccia come il meteo e la pubblicità. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, secondo e primo posto della classifica. Dunque, qualcuno mi scrive: ma sono anni che lei fa la... Ma anni no, saranno due, un anno e mezzo, due, che lei fa la classifica, ma non ci sono cambiamenti in positivo. Si dia una regolata, insomma, ed è colpa mia. Almeno noi li mettiamo alla pubblica gogna, no? Poi non è che poi seguiamo tutti i processi, le sanzioni, ma almeno li raccontiamo. Non è che possiamo sostituirci all'autorità giudiziaria o alla polizia investigativa, ragazzi, però perché dovremmo vergognarci e darci una regolata? No, andiamo avanti così, dai, perché adesso devo raccontarvi una cosa. Si dice che in questa terra, in questa vita, non c'è pace per i vivi. Il problema, mi rendo conto che col venerdì, col tempo che c'è nel centro-nord, però il problema è che non c'è pace neanche per i morti in questo paese. E devo essere serio su una vicenda che verrebbe voglia di buttarla a ridere. Allora, pensate a questa cosa. Succede a Roma, da prima, che siamo al secondo posto. C'è un turista che prende l'autobus che collega l'autobus della SIT, Società Italiana Trasporti, che fa la spola tra la stazione di Termini e l'aeroporto Fiumicino Leonardo da Vinci. Lui è brasiliano. Cosa succede? Purtroppo muore di infarto sull'autobus che lo stava portando in aeroporto, e questo avviene all'altezza del Vaticano. Ha un malore e ha un infarto, ahimè, dispiace per lui. Viene subito dato l'allarme e sul posto giunge un'ambulanza del 118. I medici constatano che l'uomo è deceduto stroncato da un infarto. La moglie è disperata. Perfetto, secondo voi da quel momento a quando il corpo del brasiliano defunto viene levato dall'autobus che deve collegare Termini a Fiumicino, quanto tempo ci vuole? Il cadavere resta nell'autobus sotto il sole a bollire, mi dispiace essere così crudo, ma altro non riesco a dire, per 8 ore nel pieno centro di Roma davanti al Vaticano. Perché? E qui andiamo veramente alla parodia. Allora, la rimozione del cadavere si rivela subito ben più difficile del previsto. Alle 16 il personale del 118, dopo aver certificato il decesso causato da morte naturali, non sa chi deve provvedere a spostare il cadavere. La SIT, la Società Italiana Trasporti che fa il collegamento, dopo aver provveduto a trasferire gli altri passeggeri su un secondo autobus, almeno quello, ha chiesto l'intervento del commissariato e ha avvisato il consolato brasiliano, che a sua volta ha contattato l'agenzia di pompe funebri convenzionata con l'assicurazione che la vittima aveva fatta per il viaggio. Va bene. L'agenzia ha chiesto però un atto dell'autorità giudiziaria o della polizia per intervenire. Le autorità a loro volta hanno specificato non è previsto. Insomma, il caos, intanto il cadavere sta lì. A quel punto, in via Gregorio VII, si reca lo stesso titolare della SIT, che cerca di contattare la polizia mortuaria. Allora, invano. Dice, la polizia mortuaria non c'è, ho capito? Facile così però. Il centralino dei vigili urbani squilla vuoto, il comando è chiuso, a mezzanotte, siamo arrivati dalle 16 a mezzanotte, finalmente intervengono tre volanti, ma si può fare tre volanti? E finalmente si fa entrare in azione la polizia mortuaria, il cadavere, quindi 8 ore, e l'autobus sta bloccato con un cadavere dentro. Questo pochi giorni fa a Roma, di fronte al Vaticano, in via Gregorio VII. Ma poteva andargli peggio, lo dico con massimo rispetto al povero brasiliano, perché se la stessa vicenda fosse avvenuta a Susa non trovava neanche l'obitorio. E andiamo quindi al primo posto della nostra classifica. And the winner is... I 4 milioni più un altro milione e mezzo di euro spesi all'ospedale di Susa per il nuovo obitorio. Oh, vedi che tutto si tiene in questo paese. Dunque, è dal 2013 che praticamente lo stanno costruendo, è pronto e doveva essere aperto nel dicembre 2015. Ci sono i locali imbiancati, pavimentati, gli attacchi elettrici già predisposti, c'è tutto. Che cosa manca? Beh, insomma, due dettagli mancano: le celle frigorifere e i tavoli autoptici. E quindi le salme vengono costruite nelle vecchie camere, obsolete camere mortuarie. Hanno già speso 5 milioni e mezzo di euro in tutto. Cosa c'è nel nuovo obitorio? Una mazza, solo delle sedie metalliche protette da teli di nylon, un armadio e alcuni scatoloni. Fine. Perché? Perché mancano i fondi per acquistare appunto queste dotazioni tecnologiche. Parliamo di 30-40 mila euro, ne hanno spesi 5 milioni e mezzo in tutto, 4 milioni per il nuovo ampliamento del presidio, più 1,5 milioni per ristrutturare l'ala risalente agli anni 70. Alla fine, cosa è successo? Che i comuni della Val di Susa si sono messi d'accordo, si faranno carico di questi soldi, come contropartita potranno usufruire per 10 anni delle nuove camere mortuarie. Non si spera di, insomma, si spera di non usare tanto, però insomma, tant'è, perché adesso pagano 200 euro a salma per appoggiarsi, come si dice in gergo, a quelle vecchie. Dunque, ripeto, apertura delle camere data per certa a dicembre 2015, visto che è dal metà del 2013 che è stata costruita la nuova e funzionante area dell'ospedale, grazie ai finanziamenti statali. 200.000 euro aggiuntivo di costo delle opere dell'edilizia, niente. Adesso ha spiegato il direttore sanitario Minniti che c'era la necessità di impiegare le risorse disponibili per far fronte a altre priorità, e quindi hanno dovuto rimandare l'apertura dell'obitorio per 2 anni e mezzo. Tra il povero brasiliano a Roma e l'obitorio di Val di Susa mi manca un crisantemo il 2 di novembre. Traffico e poi andiamo con l'esempio virtuoso. Focus Economia. No, e te pareva, eppure venerdì 13 oggi, per forza parliamo di obitori e di morti. Sì, qualcuno mi fa notare che in questo paese è vero che esiste anche il certificato di esistenza in vita, non ce ne siamo mai occupati, è un certificato importantissimo. Cioè il certificato, visto che parlavamo di morti, il certificato di esistenza in vita prevede, io ti giuro, non ci posso credere, prevede che tu praticamente riconosce, certifica che tu eri in vita nel momento in cui il certificato è stato emesso, cioè che non l'ha ritirato la mano di Frankenstein Junior, non eri tu, diciamo, non eri uno zombie, eri effettivamente in vita nel momento in cui quel certificato ti veniva dato. Poi, quindi è un certificato di esistenza in vita che dura quanto? Dura nel momento stesso, è quasi un principio filosofico, pantarei, cioè nel momento stesso in cui te lo danno già però non è più valido, perché tu potresti essere morto un minuto dopo. Però è necessario, esiste e fa parte della nostra burocrazia il certificato di esistenza in vita. Più difficile del certificato di esistenza in morte, insomma, quello. Mamma mia. Allora, andiamo con gli esempi virtuosi. E allora, Fabrizio Perrone, cofondatore e amministratore legato di Buzzulle. Come si legge Buzzulle? Buzzulle? No, si legge Basul. Basul? Esatto. Già il nome ve lo farei cambiare. Basul, allora, quanti anni ha? Ma lo facciamo per essere ricordati. Quanti anni ha lei? Io ho 32. E dove lavora e vive, dove ha studiato? Allora, io ho fatto l'università a Napoli e a Cork, in Irlanda. Mm-hmm. E vivo, insomma, diciamo che teoricamente vivrei a Napoli, anche se purtroppo ci passano più di 1 o 2 giorni a settimana, perché sono più tra gli altri uffici che abbiamo: Roma, Milano, Londra, e ora a breve apriremo anche a Mosca, quindi sono più in giro per gli uffici commerciali. Allora, noi lo dico qui sempre senza retorica, visto che purtroppo nella classifica, nella poco invidiabile classifica, c'è una predominanza, insomma, del sud, ogni volta che noi riusciamo a portare una startup, una nuova impresa, qualcuno che si è rimboccato le maniche in questi anni, a maggior ragione se giovane, ma non solo, nel nostro mezzogiorno siamo ancora più contenti. Quando è che avete fondato Buzzulle e che cosa fate a questo punto e quanti siete? Allora, Basul, non ce la farò mai dirlo, Basul, ok. Si occupa di influencer marketing, quindi... Di influencer marketing, cerco di spiegarlo in maniera più semplice. In pratica, oggi le aziende cercano sempre più di individuare testimonial sulla rete, quindi appunto persone che non sono necessariamente dei personaggi famosi oppure delle celebrità, che possono diventare ambasciatori del proprio marchio. E noi abbiamo sviluppato una tecnologia, quindi un algoritmo che consente di capire chi all'interno dei social network è il più adatto a parlare di un determinato brand, perché magari è riconosciuto dalla propria cerchia di amici come esperto in un determinato topic che può essere, non so, moda, sport, eccetera. Se io sono riconosciuto come esperto in moda su alcuni dei miei canali, delle aziende di moda possono... tra virgolette ingaggiarmi o avvicinarmi attraverso la piattaforma per fare in modo che io diventi ambasciatore del proprio brand. Allora, qui devo chiedere una cosa. Nella rete, nella rivoluzione che la rete, che il web sta creando al modo in cui si commercializzano beni, prodotti, servizi, in cui si mettono in competizione, in concorrenza e quant'altro, sta emergendo con forza un elemento che le aziende che devono vendere, collocare un prodotto, usano molto, stanno usando molto, e cioè il cosiddetto influencer. Che cavolo vuol dire? È uno che con la sua opinione indirizza i gusti del pubblico. Quindi può essere uno che ha un blog molto famoso sul cibo, sulla moda, su quello che vuoi tu, può essere l'influencer. Che non è l'influenza, è l'influencer. Allora, l'influencer è quello che ti dice... che le aziende individuano e identificano come persona capace di orientare i gusti, per cui immaginate su tutti gli effetti di abbigliamento, moda e quant'altro, quanto vuol dire. Voi avete trovato un algoritmo, e l'avete elaborato chiaramente in una piattaforma, che permette di capire su quel tipo di prodotto, non so, io volessi pubblicizzare un'acqua naturale, quali sono gli influencer più importanti in rete, a chi rivolgermi, chi usare come testimonial? Sì, in realtà non solo chi usare come testimonial, ma in realtà... proprio consentiamo di creare una vera e propria campagna di esposizione, quindi non solo individuarli ma coinvolgerli e spendere il proprio budget sulla base di, diciamo, poi della performance raggiunta, per esempio in termini di interazioni, in termini di visite al sito web, guardi, siccome gli ascoltatori dicono ma che roba è sta qua, allora mi dice quanto avete ricevuto come primo finanziamento nel 2013 e quanto fatturate adesso, così faccio capire anche che... Noi abbiamo ricevuto un seed da Digital Magics di 180.000 euro alla fine del 2013, poi abbiamo ricevuto in realtà un altro finanziamento appunto tra la fine del 2014 e metà del 2015 di 1 milione da una serie di fondi di investimento sia italiani che UK, inglesi, ad oggi britannici. Appunto, esatto, l'anno scorso abbiamo fatturato oltre 1,2 milioni, quest'anno la previsione di fatturato è di circa 3 milioni. Vedi che poi tutti pensano che siano robetta, così sono 3 milioni di fatturato E quanti siete come soci? 3, 4? Siamo come fondatori, siamo 4. Oggi abbiamo quindi sostanzialmente appunto gli investitori, poi come soci abbiamo ricevuto diversi premi da, in realtà, per la nostra tecnologia, sia da, appunto, da aziende come Unilever, da SAP, da Intel. Ora siamo stati riconosciuti dal governo britannico tra le 10 migliori startup a livello internazionale, quindi ci stanno supportando all'ingresso del appunto nell'ingresso del mercato. Ora siamo in contatto con uno dei principali fondi russi e quindi siamo in procinto di aprire anche lì. E avete varie sedi, vari uffici? Sì, abbiamo uffici a Napoli, dove è appunto l'ufficio principale in realtà, dove si trova tutto il marketing, tutto lo sviluppo e tutte le operation. E poi abbiamo uffici a Roma, Milano, Londra e a breve Mosca. E a breve Mosca. Senta, ma è vero che avete ricevuto anche un finanziamento dalla regione Campania? No, questa è una barzelletta. No? Perché una barzelletta? No, nel senso che noi quando avevamo ricevuto, appunto, quando nel 2013... Allora facciamo così, visto che è una barzelletta, me la racconta dopo il GR24, 349-238-6666 per WhatsApp e SMS, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, poi parliamo anche del PIL e della borsa. Intanto GR24. l'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. Sotto i 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Volevo concludere l'approfondimento con la startup, la nuova società della settimana. Eravamo, vi ricordo, in collegamento, tanto il nome non riuscirò mai a dirlo, per cui ci tento di nuovo. Busoul, no? Basul, Buzzole, la chiamo Buzzole. Mi dicono che lei usa troppi inglesismi, perrone. Comunque, al di là del, vedo alcuni scetticismi. Attenzione, che poi a me non interessa quale sia l'attività che uno svolge, l'importante è il giro d'affari che sviluppa. E voi siete partiti con 180.000 euro nel 2013, siete a 1.500.000 nel 2015 e 3 milioni previsti quest'anno con 35 dipendenti. Per cui, voglio dire, ogni lavoro è bello per chi lo fa e soprattutto se fa fatturato e assume. Mi racconti invece perché tra i vari finanziamenti avete vinto il premio per Intel come migliore startup europea, siete stati inseriti nel programma britannico Global Entrepreneur Program e quant'altro. Sì. Unilever vi ha inserito tra le 15 migliori startup europee. Avete avuto anche un finanziamento della Regione Campania perché avete partecipato al bando? No, in realtà appunto quando abbiamo ricevuto il primo finanziamento da parte di Digital Magix era appena uscita una misura della Regione Campania, sì, in particolare di Sviluppo Campania, denominata microcredito, che dava la possibilità a aziende neonate di usufruire di questo prestito senza garanzia a tasso zero di 25.000 euro. Quindi applicammo, facemmo domanda, era dicembre 2013, ci hanno risposto settimana scorsa dicendo che il progetto, che la domanda è stata bocciata perché il progetto non è stato ritenuto tecnicamente valido. È bello questo perché nel frattempo, dal 2013 adesso, voi fate 3 milioni di euro di fatturato, però loro ci hanno messo 3 anni a dirvi che tecnicamente non era valido. Vabbè, dai, la saluto così, le auguro buon fine settimana. È venerdì 13, non, le scatole già piene quando sento queste cose. Allora, o ci metti 3 settimane, 3 mesi a rispondere e va bene, sì, si può capire, no, ma non è che dopo 3 anni, quando voi fate avete 35 dipendenti, 3 milioni di fatturato, il progetto è tecnicamente non valido. Secondo me tecnicamente non lo hanno capito. Comunque, grazie a lei e a tutti i suoi soci, che sono tutti giovanissimi, perché ricordo che ci sono anche Gennaro Varriale, Luca Camillo e Luca Pignataro. Grazie a Fabrizio Perrone. Andiamo alla borsa, oggi in positivo, anche se non di tanto, più 0,44%, più 0,60% Parigi, più 0,90% Francoforte, più 0,50% Londra, soprattutto per le trimestrali, ripeto, per settimana questa e anche la scorsa di tanti trimestrali. Allora, molto bene la reazione, molto buona la reazione del mercato su due trimestrali, Yoox Net-a-Porter più 8,25%, e Ferragamo più 8,13%. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Yoox Net-a-Porter e Ferragamo, e anche Ubi a sto punto, che ha chiuso con un più 5,60%. Sì, due trimestrali del settore lusso positive, accompagnate in entrambi i casi per entrambe le aziende anche da delle notizie che hanno sostenuto il titolo. Nel caso di Yux, oltre ai 446 milioni di ricavi nel primo trimestre, anche la conferma del contratto con Armani, una partnership rinnovata per altri 10 anni. Nel caso di Ferragamo, hanno sorpreso soprattutto i margini operativi in crescita, nonostante un primo trimestre non facile per il settore del lusso, ma insieme è arrivata anche l'indicazione ufficiale del nuovo amministratore delegato che sostituirà Michele Norsa e sarà Eraldo Poletto, ex numero uno di Furla. Per quanto riguarda Ubi, anch'essa effetto conti che sono stati in linea con le attese, il titolo ha guadagnato il 5,6% tra i broker, Citi ha indicato una raccomandazione di acquisto sul titolo perché da inizio anno ha perso il 50% e l'attesa è tutta per il piano industriale che verrà presentato entro il mese di giugno e inizio luglio. Ancora oggi, per quello che riguarda invece chi non se l'è passata bene, spiccano Unipol -2,90 e Unipol Sai -2,5%. Sì, hanno presentato oltre alla trimestrale positiva gli obiettivi del piano industriale al 2018, obiettivi che sono deludenti, dicono gli analisti, sul fronte degli utili, con previsti tra 1,4 e 1,6 miliardi, con una distribuzione di dividendi complessiva per circa 1 miliardo, ma soprattutto gli operatori si aspettavano qualche indicazione in più sul profilo strategico, in particolare sul destino di Unipol Banca, la divisione bancaria del gruppo bolognese, per il quale ci si aspetterebbe una aggregazione con altri istituti. Ancora sui titoli, cito anche Saipem -2,24, Generali -1,1 e Moncler -0,44%. Altri titoli invece, mentre abbiamo visto andare bene anche, oltre che Anima Holding +4,70, Azimut +3%, Ferrari +2,60, Fiat Chrysler +2,20, Fineco Bank +1,90, Telecom alla fine chiude in rialzo dell'1,13%, e invece Mediaset non ha approfittato praticamente +0,38% del rialzo. Tra l'altro oggi Fininvest ha annunciato di avere comprato un blocco di titoli, no? Sì, Fininvest è tornata in acquisto su Mediaset dopo che lo scorso anno era scesa dal 41 al 33% pur rimanendo al controllo del gruppo televisivo. Fininvest ha comprato nel mese di aprile azioni per circa 58 milioni di euro, si è riportata vicino al 35%, diciamo dopo l'ingresso, anche non è ancora formale, di Vivendi nell'azionariato di Mediaset. Fininvest ha voluto un po' rafforzare la presa sul suo gruppo televisivo, il titolo ne ha beneficiato solo parzialmente, come ricordavi, +0,4% la performance di oggi. E allora andiamo sui migliori e peggiori in assoluto di questa ultima seduta di borsa. Metorios Capital +15,80, Saras +9%, poi Yux, Interporter, Ferragamo, l'abbiamo detto, Fiera Milano +8%, Interpump +7%, Credem +6,30. I peggiori: Coimares -14%, Banca Intermobiliare -9,40%, Innovatec -8,90%, Ambro Mobiliare -7,60%. Allora buon fine settimana a te Andrea Fontana e ai colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico e poi parliamo dei dati del PIL e della deflazione diffusi oggi dall'Istat. Focus Economia. -18:19. Allora, i dati di oggi, sia a livello europeo che a livello italiano. Partiamo dall'Italia. +0,3% il PIL nei primi tre mesi del 2016, già corretto per giugno lavorativi. Rispetto al primo trimestre del 2015 è un 1% in più. Però lo 0,3% è quello già la crescita che abbiamo fatto rispetto all'ultimo trimestre del 2015. Però rispetto a un anno prima è un 1% in più. Ancora è in linea con le previsioni degli analisti, ma si nota una certa accelerazione rispetto all'ultimo trimestre del 2015, quando facevamo +0,2%, il primo trimestre abbiamo fatto +0,3%. Speriamo. La deflazione invece viene rivista in maniera negativa, cioè più ampia di quanto atteso, meno 0,5% i prezzi ad aprile, dopo il meno 0,2% di marzo, quindi un peggioramento netto, e calano anche i prezzi dei generi di maggior consumo, beni alimentari e per la casa, meno 0,2% su base annua. Però restiamo sul PIL, perché per questo PIL va visto in graduatoria, in classifica. Oggi Eurostat ha diffuso tutti i dati dell'area europea. Allora, nell'area euro, restiamo solo sulla parte euro, la Slovacchia fa più 1,7, Cipro più 0,9, Spagna e Lituania più 0,8, Germania più 0,7 rispetto sempre al trimestre precedente, Austria più 0,6, Francia più 0,5, Italia più 0,3. Poi ci sono la Grecia in recessione, meno 0,4, Portogallo più 0,1. Quindi siamo nella parte bassa della classifica. Ringrazio un economista che alcuni di voi, se hanno la possibilità di ascoltare Radio 24 lo sabato mattina, conoscono, perché è ospite con Oscar Giannino dei Conti della Belva. Mario Seminario, buonasera. Buonasera. Ecco, qui si urla meno che con Giannino, no scherzo. Senta Seminario, beh, non è difficile, visto quanto grida Oscar delle volte. Allora, mi dica una cosa, io non voglio giocare al bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, perché veramente di una, insomma, così mi fa venire pena, però uno dovrebbe dire, vabbè, il PIL è accelerato rispetto all'ultimo trimestre del 2015, che ha fatto più 0,2, abbiamo fatto più 0,3, quindi diciamo il 2016 non è iniziato frenando. Poi però un altro ti direbbe, sì, ma guardati la classifica europea che ho appena letto, siamo nella parte bassa della crescita economica. E allora? Beh sì, diciamo, il primo trimestre è buono praticamente in media per tutta l'Eurozona, perché tutta l'Eurozona fa più 0,6, noi facciamo la metà. Per cui mi pare che confermiamo la nostra assai poco meritevole e meritoria tradizione di paese che cresce col freno a mano tirato. E questo è abbastanza oggettivo. È vero che abbiamo invertito i quattro trimestri del 2015, quando praticamente stavamo planando, più 0,4, più 0,3, più 0,2, più 0,1. Quindi c'è anche motivo di soddisfazione in questo. Però se guardiamo, come diceva lei, i dati della Germania e della Francia, che è l'altro malato d'Europa, diciamo che c'è ben poco da rallegrarsi al netto della solita propaganda. Però, se mi consente, visto che avremo solamente tra un mese la disaggregazione, cioè cercare di capire che cosa ha contribuito a questo più 0,3, in particolare stiamo attenti al commercio estero, che però mi pare che Istat abbia già anticipato che ha lievemente sottratto crescita, e all'andamento delle scorte. Guardiamo un attimo il dato tedesco, perché questa è una cosa a cui io tengo abbastanza, perché io nella grande tassonomia italiana io ero visto prima come grande antitedesco, adesso sono visto come grande filo tedesco, per cui l'occasione mi è propizia per precisare il mio pensiero. La Germania fa più 0,7 con una fortissima spinta dei consumi domestici, sia privati che pubblici, cioè spesa pubblica. La spesa pubblica verosimilmente è quella che va per accomodare e integrare l'impatto enorme della immigrazione dello scorso anno. I consumi privati sono frutto del buon andamento dell'economia, abbiamo visto anche che la IG Metall, il sindacato dei metalmeccanici, porta a casa un 4,8% in 21 mesi, per cui questo non è un dato tedesco di spinta dei consumi interni che è relativo solo a questo trimestre, perché è da almeno due o tre trimestri che la Germania ha una forte spinta della domanda interna dei consumi privati e in misura minore di quelli pubblici. Quindi la grande narrazione italiana secondo la quale la Germania continua ad operare col freno a mano tirato, non cresce, non consuma, non stimola le importazioni eccetera, semplicemente non sussiste. Oddio, Seminario, abbiamo visto anche un dato questa settimana in cui il surplus commerciale tedesco era a livello record, però è importante ricordare che qualcosa in Germania e più di qualcosa si sta muovendo, perché per anni invece questo non era, certo. Ed è vero che il contratto di cui parlavamo all'inizio del programma della IG Metall, cioè della FIOM tedesca, potentissima, è un contratto che porta soldi in busta paga ai metalmeccanici e agli operatori del settore elettrico in Germania, quindi dovrebbe portare in prospettiva a un ulteriore aumento dei consumi. Ma noi siamo contentissimi se la domanda interna tedesca riparte, perché dovremmo avvantaggiarcene un po' anche noi. Mi chiedete molto del debito. Sì, Banca Italia oggi ha diffuso un nuovo dato sul debito, però attenzione, quello che a noi interessa del debito, che è in crescita, è il rapporto sul PIL, perché prendere la cifra assoluta va benissimo, però tu potresti avere un debito che in rapporto sul PIL cala pur aumentando il valore assoluto se cresce il denominatore, il PIL. Vale lo stesso ragionamento che vale per il deficit. Qual è la cosa che la preoccupa di più nel nostro 0,3%? Allora, ripeto, è ovvio che rispetto a 13 trimestri di recessione vera e poi un 2015 di modesta ripresa economica, tutte le volte che c'è segno più uno deve essere contento, dopodiché però deve essere anche realista e guardare quello che fanno gli altri per non fare, diciamo così, per non limitarsi a casa propria. Dicevo, qual è la cosa che la preoccupa di più? Quello che mi preoccupa di più è che il rapporto debito-PIL non sta scendendo. Contrariamente a quello che Renzi e Padoan avevano previsto per molti mesi nel 2015, cioè l'inizio del ciclo virtuoso della riduzione del rapporto debito-PIL, quest'anno sarà da stazionario a moderatamente in aumento, l'anno prossimo praticamente stesso discorso. Allora, noi possiamo discutere di un cambio delle regole europee, della flessibilità, di un diverso calcolo dell'output gap e di quant'altro, però se alla fine il numero di scarico, cioè il terminale dello stato del nostro rischio paese, cioè il rapporto debito-PIL, non flette, noi restiamo sotto osservazione e abbiamo motivo di preoccupazione. In questo discorso pesa sicuramente la pressione deflazionistica, perché se noi abbiamo un prodotto interno lordo nominale che cresce, certo, meno del costo medio del nostro debito pubblico, noi siamo condannati a fare avanzi primari ampi e crescenti, cioè di fatto a mettere le ganasce o comunque a pestare il freno sull'economia. È già un'economia che di suo cresce molto poco. Sì, questo è un altro grosso problema della deflazione, perché ce lo chiedete molte volte, a parte che uno rimanda gli acquisti, ma è un dramma per i debitori, perché se l'inflazione riduce il valore reale del tuo debito, facciamo spesso l'esempio, un'inflazione al 10% vorrebbe dire che tu dopo un anno il tuo debito in valore reale è il 10% più basso. Funziona all'esatto opposto quando tu hai la deflazione, cioè aumenta il valore reale del tuo debito. Però su questo lei parlava anche del debito, è aumentato di circa 14 miliardi a 2228 miliardi di euro il nostro debito. Poco fa l'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato il voto per Italia BBB- con prospettive stabili, ha confermato però il taglio delle stime di crescita portandole all'1,1% per il 2016 e all'1,3% per il 2017. Seminario, però, che cosa farebbe lei a questo punto? Guardi, questo è molto difficile da dire. Diciamo che noi stiamo crescendo troppo poco con un deficit pubblico di qualità non eccelsa, perché abbiamo speso molti soldi e continuiamo a spendere, ad esempio, sugli 80 euro, sui sussidi di decontribuzione che quando scadranno tra poco meno di due anni avranno un problema enorme. Abbiamo detassato la prima casa, che non si sa che impatto possa avere sui consumi, ma soprattutto abbiamo una struttura demografica che ci gioca pesantemente contro, e questo non è colpa di nessun governo italiano pro tempore. Per cui, diciamo, io avrei utilizzato le risorse fiscali che sono state liberate in questi due ultimi anni per una riduzione erga omnes della pressione fiscale, sia sulla curva delle aliquote IRPEF che immediatamente su IRAP e IRES. Vabbè, guardi, su questo lei sa che il gruppo, il giornale di cui facciamo parte, fece a suo tempo, diede a suo tempo un'indicazione molto chiara, la dicevamo modestamente anche noi: i soldi dell'ICI, dell'IMU, usali per ridurre IRPEF e IRAP, cioè le tasse su chi lavora o su chi il lavoro lo dà. Comunque la scelta è stata diversa e su questo io continuo a ritenere che lì si liberassero maggiori risorse che non sulla tassa sulla prima casa. Grazie anche all'economista Seminario, che domani ritrovate domani mattina ai Conti della Belva. Grazie come sempre anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in studio, e poi Paolo La Corte per l'assistenza in buonanotte Pietro La Corte, ragazzi sono stanco anch'io, venerdì Pietro La Corte per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni le auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Radio 24. La passione si sente.